Permettetemi, a titolo di, speriamo, provvisorio congedo, di segnalarvi una notiziola che probabilmente in altre circostanze mi sarebbe sfuggita, perché anche se di solito sono un avido lettore di giornali e riviste, ci sono certi argomenti e certi personaggi che mi spingono sistematicamente a omettere la lettura dell'articolo che le riguarda. Comunque, avendo molto tempo da perdere o molto tempo per spaziare tra le righe, e aprendo dal numero 1399 di Panorama, quello per intenderci con la foto del senatore Benetton nudo in copertina, apprendo che taluni ex protagonisti del non mai abbastanza vituperato 68 hanno deciso, come dire, di ridiscendere in pista per non fare mancare il loro ingegno e le loro risorse alla patria in pericolo. E detto fatto, costituito un apposito comitato, hanno offerto i loro buoni servizi all'onorevole Mario Segni, Mario Mariotto, non capisco mai, nella serena convinzione che oggi si apre un concreto spiraglio politico per uscire dal vecchio sistema, è una citazione, e che detto Segni, altra citazione, è l'unico garante e motore di del passaggio alla Seconda Repubblica. Chiuso. Beh, niente di strano, direte, già che sappiamo già tutti che certi ex protagonisti del 68 sono capaci praticamente di qualsiasi cosa, e la notiziola non meriterebbe altro che una nota in calce a quella storia universale del trasformismo cui un giorno o l'altro dovremo deciderci di por mano. Tanto più che l'esponente principe del gruppetto è il ben noto Giuseppe Saracino, detto Popi, che gli ascoltatori più anziani probabilmente ricorderanno per una certa, come dire, ondivagità ondiologica. E se l'onorevole Segno ha accettato l'offerta, presentata gli sembra tramite tale avvocato Isolabella, noto esponente monarchico e testimone della moralità e del buon carattere del principe Vittorio Emanuele di Savoia alla corte d'assise di Parigi, beh, vuol dire che è davvero di bocca buona e pur di seppellire la Prima Repubblica è disposto a tutto. Ma ecco, c'è un particolare che riguarda direttamente me. E sentite un po' cosa scrive la nota rivista berlusconiana, alla lettera. Gli ex del 68 una prima battaglia con Segni la stanno già conducendo e quasi vincendo, quella contro le Olimpiadi 2000 a Milano. E boh, sarà vero. Prosegue. E già vagheggiano, notate il vagheggiano, e già vagheggiano una giunta ombra al comune con dei nomi stimati, protagonisti degli anni della contestazione, tra i quali nomi, per farla breve, accanto a quello di degni gentiluomini che non è qui il caso di citare, figura inopinatamente il mio. Sì, sì, il mio. Carlo Riva, ex Lotta Continua, ed ex Pavignano Radicale all'Istruzione. Porca miseria. Perché, oltre a una certa curiosità di sapere cosa significhi per l'autore dell'articolo essere un ex Pavignano Radicale, che non mi sembra una definizione di me che... Vabbè, oltre a questa vaga curiosità mi tocca, con tutti i guai che ho già, quello di decidere cosa fare in proposito. Vedete, può darsi benissimo che i figuri in questione vagheggino la mia presenza nella loro giunta ombra, ma io certamente no. Non ci penso nemmeno. Le mie opinioni sull'onorevole Segni, sulla Seconda Repubblica, sulle giunte ombra, sulla necessità di occuparsi di istruzione a quel livello e soprattutto su Giuseppe Saracino, detto Popi, rendono l'ipotesi assolutamente impossibile. E urge una smentita, una denuncia possibilmente, una diffida. Eppure capirete anche voi che la questione è spinosa. L'articolo non afferma che il ben noto Carlo Riva e gli altri gentiluomini previsti abbiano aderito al progetto saraciniano, dice solo che gli altri vagheggiano la loro presenza, che è un diritto a tutti riconosciuto, quello di vagheggiare qualcosa. Però è abbastanza difficile che il medio lettore distratto faccia la distinzione. Il medio lettore distratto legge, scuote la testa e dice: ah sì, anche quel porco di Oliva è passato al nemico. E a me non resta neanche la soddisfazione di sfidare il giornalista a duello o di pregare il mio avvocato di intimare al direttore di Panorama la rettifica ai sensi delle leggi vigenti, perché in realtà non c'è niente da rettificare. Il tutto Il tutto per dimostrare, nella presunzione che siano stati gli interessati a fornire a Panorama i nomi in questione, per dimostrare quanto sia facile per qualsiasi giornalista un po' facillone falsificare una notizia scrivendo scrupolosamente la verità. E quanto certi lupi riescano a conservare in qualsiasi circostanza un foltissimo pelo insieme a tutti i loro radicatissimi vizi. Quanto ci si possa fidare di certi sedicenti leader, disposti ad avorare chiunque nelle proprie file senza neanche chiederglielo prima, lo lascio decidere a voi. Se non proprio un delirio d'onnipotenza, indica almeno la... è una tendenza che indica almeno una certa arroganza, una certa propensione a credere che tutti siano disposti a fare proprio tutto quanto desiderino loro. Già. Mi sembra di ricordare che questa propensione a ritenere che tutti desiderino fare quello che desiderava lui al Saracino in passato abbia già procurato qualche complicazione. Ma non badiamo a queste miserie, cari amici, e speriamo soltanto di ritrovarci presto insieme. E grazie ancora di tutti i vostri auguri.